si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Si può fare, staremo insieme fino alle 10 del mattino, sono le 7.35 in questo momento, tra poco cominciamo a dare un'occhiata ai giornali di oggi, una breve rassegna stampa di una mezz'oretta, poi come sempre il giornale radio e subito dopo cominceremo con i nostri approfondimenti in diretta, gli ospiti, le buone notizie. Cominceremo questa mattina da una proposta, insomma il Ministero dell'Interno ha rialzato l'allarme sicurezza in Italia dopo gli attentati a Tunisi. Il ministro Alfano ha detto c'è il rischio emulazione anche in Italia e ogni volta che si parla di rischio terrorismo di matrice islamica in Italia si parla inevitabilmente della sicurezza anche nelle moschee. E allora c'è una proposta che per una volta viene proprio dalle comunità islamiche in Italia, quella di istituire l'albo degli imam, imam controllati quindi, che parlino rigorosamente in italiano all'interno delle moschee italiane. Una proposta che non può non piacere anche al Ministero dell'Interno, al Ministro Alfano, al quale questa proposta è stata fatta qualche giorno fa in un incontro. Vedremo se questa idea di fare un albo degli imam, quindi trasparenza e probabilmente anche sicurezza nelle moschee italiane, questa proposta si farà strada, una proposta che viene da una parte delle comunità islamiche in Italia. Di questo parleremo subito dopo il giornale radio delle 8, adesso cominciamo coi giornali, vai! Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora cominciamo dunque, di che cosa si parla sui giornali di oggi? Si parla degli echi ancora delle dimissioni del ministro Lupi e del caso indagati nel governo, perché ci sono anche quattro sottosegretari indagati, cioè qualcuno che dice due pesi e due misure in questa vicenda. Poi si parla della svolta alla Pirelli, acquistata o in fase di acquisto la storica azienda dei pneumatici italiana da parte di un gruppo cinese, ma anche il nuovo fronte ISIS che ha toccato ieri lo Yemen con un gravissimo attentato alle moschee della capitale. E cominciamo proprio da qua con il Corriere della Sera, che titola in prima pagina "Kamikaze nelle moschee, Yemen, una strage apre il nuovo fronte dell'ISIS". Ed è giusto ricordare che insomma in questo caso le vittime sono tutti islamici, sono tutti musulmani, come è stato fatto notare più volte. Poi che altro? Di questo parleremo tra poco. Il caso indagati nel governo, l'altro titolo del Corriere della Sera, sottosegretari accusati, Renzi ora vuole intervenire, Lupi lascia, dice lascio a testa alta, non sono indagato. Vediamo a questo proposito un po' di elementi in più, per esempio l'intervista ad Angelino Alfano, al ministro degli interni, che dice Renzi non ha mai chiesto le dimissioni di Lupi, né pubblicamente né privatamente, anche se qualche retroscena ricostruisce la cosa in maniera un po' diversa. Ci sarebbe stato un teso faccia a faccia nel quale Renzi avrebbe detto a Lupi o ti dimetti o ti facciamo dimettere. Poi la spina nel fianco di Alfano è Nunzia De Girolamo, la vedremo tra poco, intervistata, che chiede l'uscita dell'NCD sostanzialmente dal governo anche per questa ultima vicenda di Lupi. Risponde Alfano, non è la prima volta che lo chiede, è una sua linea consolidata ritenere che si debba rompere l'alleanza con Renzi, e non è una cosa da poco perché lei è capogruppo dell'NCD, cioè il nuovo centrodestra del partito di Alfano, però insomma linee diverse, molto diverse, ma che non turbano il ministro degli interni, che poi dice non temiamo di essere considerati la stampella di Renzi, la ruota di scorta del governo, perché la nostra presenza, ricorda Alfano, ha dato una serie di frutti: l'abolizione dell'articolo 18, la responsabilità civile per i magistrati, il bonus per le neomamme e insomma e altre cose, l'eliminazione del costo del lavoro dall'IRAP, non mi pare poco in un anno, rivendica Alfano, che poi alla domanda che cosa ne pensa dei fatti attribuiti a Lupi dice Alfano, sono state valutate migliaia di intercettazioni di pagine, i PM hanno ritenuto di non indagarlo, Lupi ha subito un processo mediatico che intendeva condannarlo da subito. Non crede che sia irritante però per gli italiani sapere che un ministro si adopera per trovare lavoro a un figlio? Lupi non ha commesso reati o abusi né giuridici né etici, conclude Alfano. Dicevamo però la vicenda dei sottosegretari indagati, sono quattro, ci ricorda il Corriere, Vito De Filippo, poi c'è anche Umberto Del Basso De Caro, Francesca Barracciu e Filippo Bubbico. Il primo ministro Renzi in queste ore andrebbe dicendo, secondo questo retroscena del Corriere, adesso tocca ai sottosegretari, perché Renzi non vuole offrire il fianco a nessuna accusa di doppio pesismo che possa, diciamo, aprire nuove polemiche sul governo. Il colloquio che ieri ha portato Lupi a dimettersi sarebbe stato assai meno gioviale di quanto i due lo abbiano ricostruito. O molli tu o ti facciamo mollare, è stato questo il succo del ragionamento fatto da Renzi a Lupi, e adesso tocca ai sottosegretari, così scrive il Corriere. Staremo a vedere se di questo si tratterà. Andiamo su però su un altro giornale, perché c'è un'altra notizia che occupa dal titolo d'apertura del Messaggero, per esempio. La notizia è questa: in pensione a 66 anni e 7 mesi da gennaio del 2016, l'uscita dal lavoro sarà 4 mesi più tardi, effetto dell'aumento dell'aspettativa di vita, effetto anche di una circolare dell'INPS in ossequio, diciamo, alle nuove regole con cui si va in pensione, regole stabilite che, diciamo, collegano l'uscita dalla pensione, l'uscita dal lavoro per andare in pensione all'aumento dell'aspettativa di vita, una legge istituita dal governo Berlusconi nel 2010, quindi con una revisione triennale dell'età di uscita per andare in pensione, a ritmo che è stato accelerato dalla riforma Fornero, che ha portato questa revisione a ogni due anni, una cadenza biennale. Adesso, insomma, la notizia è questa: 66 anni e 7 mesi, non più 66 anni e 3 mesi come era stato fino al 2015. La tabella del Messaggero che ci ricorda in prospettiva cosa accadrà per esempio nel 2025, quando l'età sarà 67 anni e 8 mesi, quindi, diciamo, un anno in più preciso rispetto a quello che avverrà a partire dal 2016, e ci vorranno 43 anni e 11 mesi per gli uomini, 42 anni e 11 mesi per le donne, di requisiti contributivi in alternativa all'età o assieme all'età. Questo ce lo ricorda il Messaggero. Sempre in tema, diciamo, di notizie di carattere più economico, il Sole 24 Ore apre con naturalmente c'è spazio anche per sale ancora l'età per la pensione, al 2016 serviranno 66 anni e 7 mesi, uno degli approfondimenti. Poi c'è l'altro approfondimento che è questo: TFR in busta paga, domande al via, le regole e i calcoli per la convenienza. Sappiamo che questa operazione non sta decollando come il governo si immaginava o come qualcuno aveva immaginato, ma insomma sono poche le domande che vengono fatte in questo senso. Oggi sul Sole 24 Ore c'è un dossier proprio su come si fa, se conviene, se non conviene, a chi, perché, come, sul TFR. Ma il titolo del quotidiano è dedicato invece all'intesa tra l'Unione Europea e la Grecia, perché ieri sono stati sbloccati 2 miliardi di euro per Atene, una buona notizia. Dopo un mini summit notturno a Bruxelles fra Tsipras, Merkel, Hollande e i vertici delle istituzioni europee, la Commissione ha sbloccato 2 miliardi di aiuti di fondi strutturali, fino ad ora non spesi, da destinare a progetti per sostenere l'economia greca. Il premier Tsipras, proclamando che sono finite le verifiche della Troika, ha promesso di presentare al più presto una lista di riforme economiche. Che insomma, è l'ennesima, diciamo, promessa di questa lista di riforme economiche, lista chissà che va girando da settimane. Comunque la notizia di ieri è che si ammorbidiscono un po' le posizioni, tanto che l'Europa ha sbloccato questi 2 miliardi di aiuti per risolvere un po' la questione che per Atene è questione umanitaria. Recentemente il Parlamento di Atene ha infatti approvato la cosiddetta legge contro la crisi umanitaria, proprio per dare un po' di ossigeno, un po' di fiato, o per mettere in tasca un po' di soldi ai greci per risolvere la questione, l'emergenza povertà. Ci fermiamo un istante per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi il giornale ha un prezzo nuovo, perché notizie più costose, più fresche, più narrate. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, di nuovo sui giornali di oggi. Facciamo una breve carrellata dopo aver già fatto qualche approfondimento di altri titoli, di altri giornali. Per esempio, il Manifesto titola così: ultima preghiera, con la foto di una delle tre moschee sulle quali si è abbattuta ieri la furia degli assaltatori, degli attentatori kamikaze che si sono fatti esplodere a Sana'a, nella capitale dello Yemen. Precipita la guerra civile yemenita, un doppio attentato kamikaze fa strage di fedeli sciiti durante la preghiera del venerdì. Almeno 140 morti. Obiettivo: la comunità Houthi, che da settembre controlla la capitale Sana'a. Al-Qaeda, che nel paese ha il santuario, prende le distanze. A rivendicare è stato lo Stato Islamico, anche se poi la Casa Bianca ieri in serata, con le sue notizie, diciamo, di intelligence, ha detto non ci sono ancora elementi sicuri per attribuire questo attentato a ISIS. Gli altri giornali si occupano molto del caso dei due pesi, due misure, cioè si dimette Lupi, non indagato, non si sono dimessi o fatti dimissionare i sottosegretari del governo indagati, così il Fatto Quotidiano. Ecco gli altri da cacciare, cominciando da Nencini. Lupi si dimette, ma subito si scopre il favore fatto al suo viceministro dalla nuova cricca, l'assunzione di un suo uomo da parte del supermanager Burchi. Poi resta la truppa degli indagati ancora in sella: Barracciu, l'abbiamo già letto anche prima, Castiglione, Del Basso, De Filippo, ma anche De Luca. Il giornale fa la stessa scelta: il patto degli ipocriti. Renzi e Alfano rappresentano appunto il patto degli ipocriti, perché il premier, scrive il giornale, pugnala e poi elogia Lupi dimissionario, ma non si vergogna dei suoi sottosegretari indagati. Angelino non spende una parola in difesa del suo ministro, ma in aula mostra un biglietto di complimenti. Chi difende invece Lupi e critica Renzi all'interno del nuovo centrodestra è Nunzia De Giro Girolamo, Nunzia la ribelle. Allora, leggiamo brevemente l'intervista su Repubblica. Basta fare gli scendiletto di Matteo. Che cosa ha da rimproverare a Renzi? Dice la De Girolamo: di non essere più l'uomo nuovo, capace di decidere con coraggio e metterci la faccia. Con Lupi ha agito da Ponzio Pilato, doveva dirgli se dimettersi e spiegarne le ragioni. Affidare invece tutto all'opportunità politica o alla coscienza è ipocrita. Ma ha sbagliato anche Alfano, che è il leader del suo partito in questo momento, di Nunzia De Girolamo, finché starà dentro il nuovo centrodestra anche lei. Salvini, sapete, ha detto che c'è la lista dei centristi che sono pronti a entrare nella Lega. Ricorda un po' quando Berlusconi mandava questi segnali. Lo stile è lo stesso: ci sono tanti che sono disposti a entrare nel mio partito, eccetera eccetera. Ma torniamo alla De Girolamo, che su Alfano dice: io non mi occupo di, parlo di Renzi, dice in sostanza, che sfrutta il nuovo centrodestra con la logica dell'usa e getta, e quindi non, diciamo, non commenta, non vuol commentare direttamente la linea di Alfano. Però insiste su Renzi, perché dice: su queste basi anche abitare nella casa dell'amico di una vita diventa un problema di opportunità politica. Parla della casa che Marco Cerrai gli prestava a Firenze a Renzi, l'ha detto lei. Lupi ha fatto una scelta di dignità e moralità rispetto al doppio pesismo e alla doppia morale del PD, che candida un condannato, che sarebbe De Luca, e ha sottosegretari indagati. Cosa dovete fare a questo punto? Volete uscire dal governo? Prima che Lupi decidesse avevo detto che bisognava uscire dal governo, dare l'appoggio esterno. La linea del mio partito non è chiara: siamo di centrodestra o di centrosinistra? Se diventiamo predellini del PD, a me non mi va più bene, chiedo un congresso straordinario del mio partito. E quindi no, centrodestra va avanti la tiritera. Invece, sempre Repubblica dedica il titolo principale, come dicevamo, all'acquisto da parte dei cinesi della Pirelli. Lo shopping di Pechino, la Cina si compra la Pirelli. Maxi Opa da 7 miliardi di euro. L'Italia perde anche la Pirelli. Dai cinesi di Chem China un'offerta per arrivare al 51%. 142 anni di storia, nata nella Milano della rivoluzione industriale, capitale dell'imprenditoria, la Pirelli avrà presto Chem China, una conglomerata a controllo statale, badate bene, statale, come socio di maggioranza assoluta. Tronchetti Provera ieri ha detto: finché non ci saranno comunicati non posso dire nulla sul controllo dell'azienda, chi lo avrà in mano, ma insomma i cinesi puntano ad avere il 51%. Repubblica si incarica anche di ricordarci tutte le recenti operazioni che sono state fatte dalla Cina, ma anche da altri gruppi esteri in Italia, premettendo a tutto questo il commento del sottosegretario all'economia e allo sviluppo economico De Vincenti, che dice: ciò che conta è che la centralità della Pirelli resti in Italia. Intanto però l'arrivo di capitali esteri in sé è un bene. Il 2015 è iniziato alla grande, come mostrano i Taci e Lucchini. Lucchini acquistata dagli algerini, diciamo il polo, quello di Piombino, acquistato dagli algerini, ma ci sono operazioni che riguardano anche i Taci in Italia. E poi diciamo l'elenco è questo. Allora ci va dalle aziende italiane acquistate da gruppi esteri recentemente: Parmalat, Edison, Bulgari, Valentino, Alitalia, Ansaldo, Rinascente, Coin. Non è che ci resti molto, Poi ci sono le partecipazioni cinesi con quote del 2% in Enel, Eni, Fiat, Chrysler, Saipem, Mediobanca, Generali, Telecom, Prismian, cioè tutto praticamente. Il 35% di Cassa Depositi e Prestiti, Reti, che controlla Terna e Snam, e il 40% di Ansaldo Energia. E insomma, ma chi investe in Italia? Questa sarebbe la domanda da farsi a questo punto, perché lo Stato non può farlo, non ha una lira. I privati consolidano le loro aziende quando possono, se possono. In altri casi i capitali scappano nei paradisi fiscali o in operazioni di finanza, a investire in Italia in questo momento sui grandi gruppi sembrano essere solo i grandissimi gruppi esteri che se lo possono permettere. Andiamo al volo sulla Stampa, che c'ha una buona notizia. Oh, finalmente una buona notizia, quindi partiamo subito con la sigletta, vai. Pompei riapre la Villa dei Misteri grazie alla Stampa di metterlo in prima pagina, perché questa è sicuramente una buona notizia. Ieri il ministro dei beni culturali Franceschini, sovrintendente Osanna di Pompei, insomma, hanno fatto il punto. È stata riaperta dopo due anni di lavoro la Villa dei Misteri. Franceschini ha ricordato anche la lettera dell'UNESCO che dice: Pompei non è più a rischio di stare dentro il patrimonio mondiale, insomma, dell'umanità UNESCO, per tutti i progressi fatti. Va avanti bene il progetto Grande Pompei. Nel 2014 i turisti sono cresciuti di 200.000 rispetto all'anno precedente. Benissimo, questa sì che è una buona notizia. Ci risentiamo dopo il giornale radio, se la voce regge. A dopo. Fare cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass. Buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti e buon sabato. Ben ritrovati tutti, oggi com'è il tempo? Milano, Monterosa, nuvoloso? Ma oggi è, come ho scritto sul mio Instagram, direi che è il solito understatement milanese, sì. Questa è la prima, diciamo, senza far troppo vedere che sta arrivando la primavera. C'è un sole velato da qualche parte, ma neanche troppo, esatto, sole, secondo senza me. Troppa contentezza, che sennò poi si rischia che si sta troppo bene. 800 24 00 24, cari ascoltatori. ascoltatori, vi aspettiamo come sempre. Tra poco parleremo, l'ho già anticipato, di una proposta importante che viene da una parte delle comunità islamiche in Italia. Sì, purtroppo il ministro Alfano ha rilanciato l'allarme sulla sicurezza per il terrorismo di matrice islamica. Dopo gli attentati a Tunisi si corre il rischio di emulazione anche in Italia. C'è una proposta per quanto riguarda le nostre moschee, che è quella di istituire un albo degli imam, un albo trasparente con imam che parlino italiano, che rispettino certe regole, e insomma è una proposta secondo noi da accogliere, interessante, ne parleremo tra poco. 800 24 00 24. Poi c'è il gioco. Spieghiamo subito il gioco? Ma sì, divertente. Vai. Allora, oggi giornata mondiale della poesia. Anzi, in realtà oggi è anche la giornata mondiale dell'antirazzismo. È tutto, giusto? Oggi è la giornata di contro tutto. Il razzismo. Contro il razzismo. Ma questo dovevamo aspettarci, nel senso che ce n'è talmente tante di giornate mondiali. Io vorrei sapere se esiste un giorno dell'anno sui 365 o 366 per il 29 in cui si febbraio. Può stare tranquilli. Tanto no, perché il 29 febbraio lo sappiamo è la giornata degli errori, degli sbagli, no? Di cui, sì, insomma, ne abbiamo anche parlato. E quindi, visto che è la giornata mondiale della poesia, vi chiederemo di... Facile. Esatto, immaginate, molto facile. Declamateci una poesia. La classica che avete imparato a scuola, quelle che abbiamo imparato tutti, o altre poesie, o delle poesie che avete scritto ad hoc. La donzelletta viene dalla campagna, io mi ricordo solo queste due. No, non è vero. E poi l'altra cosa che volevo dire è che oggi è anche il compleanno di Twitter, 21 marzo del 2006, quindi oggi compie solo 9 anni. Uno pensa che Twitter sia sempre esistito, invece non è nemmeno maggiorenne, anzi gli mancano altri 9 anni per diventare maggiorenne. Ed è lo stesso Twitter che ha mandato in giro, diciamo, i 10 tweet che hanno cambiato scritto la storia o cambiato il mondo. E sono dei tweet belli. C'è il primo tweet del programmatore, ovviamente, che appunto è quello del 21 marzo 2006. E cosa aveva scritto? Niente di particolarmente interessante. Just setting up my Twitter, con Twitter scritto TVTTR, quindi diciamo abbreviato. È più interessante forse quello del 23 agosto 2007, che è la prima volta che viene nominato l'hashtag, praticamente che si inventa l'hashtag. Cioè lui chiede: how do you feel about using hashtag? D'ora in poi siamo per i temi. E poi così di seguito altri tweet. Segnaliamo che nei 10 tweet che hanno cambiato la storia non ce n'è neanche uno di Gasparri. Ah, ecco, vedi, questo chissà perché me l'aspettavo che fosse così. Allora, fatemi ricordare però anche il premio, pure oggi, messo a disposizione dall'Associazione Comuni Virtuosi in concomitanza con il bando nazionale per il premio dei comuni virtuosi, per cui tutti i comuni, i sindaci, potete candidarvi sul sito dell'Associazione Comuni Virtuosi. C'è un premio da 4.000 euro in palio per chi ha buone pratiche nel campo ambientale soprattutto. Il premio messo a disposizione oggi invece per gli ascoltatori è questo: un cesto di prodotti tipici a base dell'asparago rosa di Mezzago è a disposizione oggi per chi ci declama, insomma, la poesia. Può essere una poesia inedita, magari anche vostra, interessante, oppure se è una poesia nota, almeno declamatela in modo interessante, che so, così, in modo ignoto. Primi piatti, rigatoni con pagliato, lire 7.000. Pasta e fagioli, lire 5.000. Secondi piatti, rognone trifolato, lire 6.000. C'è anche il menù letto da Gasman, ve lo ricordate? Straordinario. Bellissimo. Direi, chiediamo ai nostri ascoltatori anche di mandarci i tweet che secondo loro hanno cambiato la storia. Però il premio lo si vince solamente declamando una poesia. Consigliamo la brevità sulle poesie. Sì, assolutamente, perché non è che possiamo stare qua tutta la mattina. Esatto. Aggiungo un'altra cosa, secondo me lo chiedono sul mio Facebook, sul mio Twitter. Sì, quello che ho pubblicato sul mio Facebook, sulla mia pagina pubblica di Facebook, è l'incipit del mio libro. In realtà il libro uscirà il 31 marzo, si intitola Fossi in te, io insisterò. E ho anche pubblicato la copertina. Rispondo per radio perché avendomelo chiesto se quello fosse l'incipit o se fosse qualcos'altro, era l'incipit. Ok, allora 800 24 0024, partiamo, vai. Ramo documenta casino potallamento documento tu me le ara. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Ramo documenta casino potallamento documento tu me le ara. Song radico, sto voglio ricere, sto voglio canta. Passaporto, patente, carta d'identità. Un bello documento prima o poi tu me le ara. Un bello documento ma ti identifica. Un bello documento dai mannaggia i cucca. Voglio tutta aiutata ad controllare. Riunione, cortei, centri, università. No, no, no, non c'è più più, non te vai mi a cucca. Adina la mamma, per fatica. Astuzia, cacco, cazzi, te la già fa l'ua. Voglio ramo documenti, fatti identificare. Sì, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, posso, ramo documenti, casino, vota la mia documento, tu me le arra. Song song radico, sto voglio ricere, sto voglio cantare. Un tuffo negli anni 90 con questo curre curre, cioè con questo 99 posse o documento, perché ricordi Carlo? Bei tempi, no? Bellissimi, bellissimi tempi. Ma sono belli anche questi. Sì. O stai cercando di dirmi che sono un anziano? Perché no, prima ti ho detto che stamattina mi sono svegliato alle 5, mi sento proprio un anziano. Diciamo che questa trasmissione si può fare facendomi svegliare il weekend così all'alba, mi sta trasformando in mia nonna. Alle 5 ero che lavavo i piatti. Fai una vita molto più sana molto di qualche più sana, anno fa. È vero, talmente sana che penso che presto morirò. O documento, perché parliamo di un documento particolare. In realtà è un pretesto. Il documento è l'albo degli imam, che esiste già, ma che le comunità islamiche, una parte delle comunità islamiche in Italia, chiedono al Ministero dell'Interno di far diventare un documento ufficiale per favorire proprio la trasparenza e anche la sicurezza nei luoghi di culto islamici. Ne parliamo con Izzedin Elzir, che è presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia e anche imam. Buongiorno. Buongiorno. E benvenuto, e benvenuto. Allora, io so che avete avuto un incontro recentemente proprio al Ministero dell'Interno c'era anche Alfano? Sì, sì, certo. Certo, anche il ministro. No, perché sa, a volte mandano magari i sottosegretari o i dirigenti. Invece c'era proprio il ministro. E anche altri sottosegretari. Benissimo. Che ha anche, tra l'altro, riaperto, a quanto ci risulta, la consulta, come si chiama? Quella che aveva fatto il ministro Pisanu, che poi era stata sospesa. Sì, sì. Realmente è un continuità di, diciamo, sì, rapporti con il nostro ministro dell'Interno e per garantire la libertà di culto per, certo, la libertà islamica, e per garantire anche una collaborazione con il nostro ministero per l'interesse di tutti quanti. E voi in questa occasione, diciamo, avete, come dire, rilanciato questa proposta di fare di questo albo degli imam, che in realtà in qualche modo esiste già, ma come cosa informale, di farne invece proprio uno strumento formale di trasparenza all'interno delle moschee. Di che si tratta? E si tratta che oggigiorno noi dobbiamo fare dei passaggi proprio coraggiosi da una parte e di tranquillizzare anche la nostra comunità, tutta quanta la nostra società. Si tratta di imam, ci sono di già, sono approvati dalla comunità islamica, dall'UPOI. Si tratta di essere anche approvati dal nostro ministero. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che conosciamo gli imam, quelli che fanno la predica del venerdì, quelli che guidano la preghiera, dove c'è mancanza di quelli che non conoscono la lingua italiana, possiamo fare per loro corso di lingua italiana, possiamo fare corsi della nostra cultura, della nostra costituzione, della nostra legislazione, e allora aiuta sempre di più a collaborare di più, a essere veramente una risposta efficace di fronte alle paure che ci sono in giro. E cosa avete trovato interesse per questa proposta che ritorna ogni tanto? Perché non è ancora stato fatto, secondo lei, questo albo come strumento ufficiale, un albo ufficiale degli imam? È perché ci vorrebbe il coraggio da tutte e due le parti, la parte della comunità islamica e la parte della nostra rappresentanza, e quindi delle istituzioni. Ma mi spieghi i due lati della medaglia, perché ci vorrebbe coraggio da parte delle comunità islamiche e perché anche però da parte del Ministero dell'Interno? Questo lo capisco di meno, perché è difficile per il Ministero dell'Interno accettare questa idea? È perché purtroppo spesso chi governa le piace, diciamo, di non vedere le questioni e le problematiche, di non affrontarle, si parla ma non si affrontano, e così la patata bollente lo lascia a quello che viene dopo, e quello che viene dopo rimanda ancora di più e non si risolvano i problemi. Cioè lei dice che i problemi preferiscono alimentarli, i politici, tenerli in vita piuttosto che risolverli. Questa è un po' un'interpretazione maligna, ma che non ci può anche stare. Alimentarli, non dico alimentarli, ma preferiscono non risolverli, perché sono approvare un imam vuol dire un riconoscimento diretto, e allora la questione dell'Islam ancora non c'è l'intesa, tante questioni, e allora si preferisce di non vederle. No, ma mi scusi, la cosa che non ho capito, sono lo stupido dei due io, ma la cosa che non ho capito è come mai le istituzioni non hanno interesse affinché si crei l'albo degli imam. Io credo che non hanno il coraggio di affrontare queste questioni, perché queste questioni non portano voto, non portano persone che votano. Allora l'intesa, noi dal 91 che abbiamo chiesto l'intesa con il nostro Stato e ancora non abbiamo un'intesa. All'interno dell'intesa c'è la questione dell'approvazione anche dell'imam. E dalla parte della comunità islamica, può darsi non c'erano tempi maturi, speriamo che ora ci sono tempi maturi. Ma perché io pensavo che fosse una questione, nel senso che in Italia si parla spesso che ce n'è troppi di albi, ce n'è veramente troppi e ci sono troppe corporazioni, si parla addirittura di smantellare quelli che ci sono, quindi pensavo che ci fosse una contrarietà una sovrapposizione di questo tipo, sì. Invece no. La questione è tecnica organizzativa. E quando c'hai albi lo conosci chi c'è, chi non c'è, sai la fotografia del tuo paese in questo campo qui, certamente se uno rimane da solo non abbiamo la fotografia generale e allora non conosciamo la realtà nazionale. Certo. Senta, invece per quanto riguarda l'altro lato della medaglia, cioè chiarito che insomma come dire, i politici devono digerire questa proposta e cercare di capire se è veramente utile per l'interesse, diciamo, collettivo e per il paese. Dal punto di vista invece della sua parte, cioè delle comunità islamiche, questa proposta di istituire un albo trasparente degli imam, cioè soltanto chi è iscritto a questo albo potrebbe poi guidare le preghiere all'interno delle moschee e fare, diciamo, le prediche. Questa proposta raccoglie consenso, cioè maggioritaria all'interno, secondo lei, della comunità islamica in Italia? E non c'è dubbio che è maggioritaria, perché dà un segnale di tranquillità anche alla stessa comunità, perché la comunità oggi purtroppo viene vista come realtà non è trasparente, realtà non è organizzata, e allora lo stesso imam hanno bisogno di sentirsi la loro dignità come responsabili della comunità, come responsabili di questa fede, e allora con questo albo può essere veramente un segnale di trasparenza, di tranquillità. Ma negli altri paesi c'è l'albo degli imam? In diversi paesi sì, non in tutti l'Europa. Per esempio dove? In Austria c'è. Sì. Austria, Belgio. E si chiama albo degli imam? Sì, sì, sì. Ah. Però non in molti paesi, mi sembra di capire. Austria, Belgio? Solo in questi due in realtà. Sì. Poi in paesi musulmani certamente che ci sono. Cioè anche nei paesi musulmani si usa avere l'albo degli imam? Certamente. Ah, pensavo fosse una questione appunto di corporazione. Poi non sono italiana, diciamo, particolare. Esatto. Facciamo parte del mondo noi italiani, non è che siamo isolati dal mondo. Senta, cosa ha provato di nuovo dopo quello che è successo per esempio a Tunisi qualche giorno fa? Realmente a Tunisi e ieri in Yemen, questo dimostra che questo terrorismo, questi criminali che non hanno dei confini, cercano con la globalizzazione di colpire dovunque le persone libere, e noi dobbiamo essere tutti insieme, destra, sinistra, religiosi, non religiosi, tutti insieme contro questo terrorismo, contro questi criminali. Ieri però a Tunisi c'è stata una manifestazione, diciamo, in occasione è caduta la linea con l'imam? No. Ho sentito un suono sospetto. C'è stata una manifestazione in occasione dell'indipendenza, dell'anniversario dell'indipendenza tunisina, che è diventata naturalmente una manifestazione contro il terrorismo, però c'erano poche persone a Tunisi, una capitale di un paese moderato, democratico, che ha una grande tradizione, c'erano un centinaio di persone, poche secondo lei, troppo poche? Questi ieri, ma l'altro ieri erano migliaia in piazza, ma in diverse parti di Tunisia, non solo nel capitale. E poi sappiamo che fanno le manifestazioni sono piccoli, una percentuale bassa, ma la popolazione tunisina tutta contro questo atto. E come mai non erano in piazza? Ma come sappiamo, come da noi, quando c'è una cosa non è che tutto il popolo italiano va in piazza. Beh, però da noi se si fa una manifestazione e vanno in piazza in 100, diciamo, è una manifestazione venuta molto male. No, ma erano l'altro giorno erano in migliaia. Ah. L'altro giorno erano in migliaia in piazza a Tunisi. Ieri, perché era secondo giorno, terzo giorno, ma il primo giorno erano in maniera spontanea in piazza migliaia di persone. No, non mi si sentiva. Grazie, grazie Elzir per essere stato con noi, il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, imam. Avete sentito la proposta, insomma, è questa, di prendere sul serio questa idea dell'albo degli imam. Chissà, potrebbe essere uno strumento per garantire un po' più di trasparenza, forse anche di sicurezza all'interno delle nostre moschee in Italia, dove pregano, credo, insomma, alcune centinaia di migliaia di musulmani, anche italiani, e in Italia islamici che sono 1,5 milioni, credo, più o meno nel nostro paese. 800 24 00 24. Poi vi aspettiamo, oltre che per commentare questa proposta, anche per declamare la vostra poesia. Tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, questa volta abbiamo risolto i nostri piccoli inconvenienti di giornata. Alessandro, buongiorno da Alessandria. Buongiorno, salve. Prego. Le dico, sarò sintetico il più possibile, le dico una poesia di Salvatore Quasimodo e una poi scritta da me, ma brevissima. Ottimo. Salvatore Quasimodo: ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Ottima. Vabbè, ha detto cuore invece di cuor, forse non è cuor della terra, un grande classico. Ognuno sta solo sul cuore della terra. Sul cuore della terra. Sì. Perfetto. Poi le dico un'altra, dato che io scrivo ho diverso. Sì. Quella che ho scritto io, dedicato a una moglie, a una donna alla quale ci tieni molto, insomma, può essere anche la tua fidanzata. Questa l'ho scritta io, sempre brevissima. Guida fidata e sicura. Credo e serenità di un amore senza fine. Vale dire, guida per le cose consuete, ma che succedono tutti i giorni. No, ma che fa? La spiega? No, c'è bisogno che ce la spieghi. Ecco. No, va bene, la poesia guida, la prendiamo fidato, così come. Guida fidata e sicura, credo serenità di un amore senza fine, che durerà fino a quando c'è vita. Va bene. È finita, fino a vita arriva. Perfetto, esatto. Perfetto. Mi raccomando, ascoltatori, niente spiegazioni, le poesie le prendiamo così come sono. Però anche la versione in prosa è sempre bella. Sì, però, se no ci vogliono due puntate. Giusto. Grazie Alessandro. Grazie mille Alessandro. Buon grazie, sabato. Cominciamo così. Salve. Esther da Pisa. Buongiorno. Buongiorno. Il segreto dello chef. È una poesia? Sì, certo, brevissimo. Vada. Ma adesso cuochi, la ricetta della vita non apprendiamo. Maciniamo giorni come acini di pepe su una pietanza troppo sciocca e con il gusto forte della sfida sempre in bocca stolti perdiamo il delicato sapore dell'attesa. Vabbè, questa è la sua? Sì. Beh, bellissima. Io lo sapevo, ma che si apriva un capitolo, le poesie degli ascoltatori. Ma su attesa, cioè è scritta perché era un ristorante e non le portavano il primo e ci hanno messo 48 minuti? No, era una riflessione sul fatto che viviamo sempre in maniera frenetica e a volte in questo correre continuo poi ci perdiamo il senso dell'attesa, che è forse metà del piacere, pensiamo, non so, una vacanza. Sì. E ha usato questa metafora qua. Sì. Va bene, Esther, grazie. Grazie mille. Grazie a voi, buongiorno. Da Pisa, sullo chef, Margherita da Ferrara. Sì, ogni qui. Poesia in realtà andrebbe metabolizzata un pochino, però è difficile fare un programma di poesia. Andiamo così a tambur battente. Margherita da Ferrara, buongiorno. Sì, sono qui, buongiorno. Buongiorno. La poesia non è mia, è di mio marito, che me l'ha dedicata da tanti anni ormai, ma è sempre valida. Sentiamo. Si intitola? Sì. Perfetto. Se tu non ci fossi, sarei una mano senza braccio, un brandello di nebbia tra i rami dei platani. Se tu non ci fossi, sarei l'urlo della solitudine, sarei una montagna, un fiume, l'albero su cui si incide ti amo. Sarei un anno di 4 inverni se tu non ci fossi. Vabbè, Margherita. Complimenti a lei e a suo marito. Ma quanti anni fa gliel'ha scritta? Ma 15. Non è molto soddisfatta. No, non è datata, direi, la poesia. Secondo me lei, Margherita, ne voleva un'altra adesso, più nuova. Guardi, io ho un libro che lui ha scritto... pieno di poesie, non tutte su di me, anche molto belle, sociali, impegnate. Ah, va bene. E quindi c'era solo l'imbarazzo della scelta. Beata lei, Margherita, che c'ha il marito che scrive poesie per lei. Grazie. Posso chiedervi una cosa velocissima? Dica. Io vi ascolto sempre, ma c'è una cosa che non sopporto. Quando quella persona che dice si può fare si mette a urlare. Ah, vabbè, quello è il film, fa parte della sigla. Ma lo dice una volta sola in 2 ore e mezza. Grazie comunque, però, Margherita. E siamo anche molto contenti che sia quello che le dà fastidio, perché avevo paura che dicesse quando dice sono lo stupido dei due, che so che è una cosa che urta molte persone e un giorno spiegherò il motivo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo ancora con le vostre poesie tra poco. Adesso però è il momento di celebrare una altra ricorrenza. Ieri è stata la giornata della felicità. Insomma, questo Pharrell Williams, non poteva che essere lui. Giornata della felicità, ne parliamo con Davide Giansoldati, autore di Vivere meglio con lo yoga della risata. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Davide. Ben ritrovato. Ciao. Insomma, l'idea dello yoga della risata è un po' questo, cioè non c'è bisogno di trovare motivi per essere felici, cominciamo a essere allegri, a ridere e poi troveremo anche motivi per essere felici. Esattamente. In inglese suona come uno slogan: fake it until you make it. Quindi fai finta finché non diventa vero. Ecco, bravo, traduci, perché veramente qua abbiamo bisogno. Poi noi siamo sempre. Ecco, è già partito. La trasformazione. La risata è bellissima. Non si può fermare. Però la trasformazione di questo slogan è: di una cosa falsa, dopo se dici 10 volte una cosa falsa, questa diventa vera. Però la citazione di questa è Goebbels, credo. No, vabbè. Sì, è così. È l'inventore della propaganda. Davide, di qualcosa. E ride, e lui parte così. La risata parla da sé. Non gliene frega nulla di quella cosa che tu hai detto di Goebbels. L'importante è ridere. Noi abbiamo bisogno almeno una volta all'anno di chiamarti. Questo è evidente, perché ci manca la tua risata. Esatto, infatti anch'io mi sentivo la vostra mancanza. Ho detto, ma adesso mi chiameranno. Ho fatto finta che mi chiamaste finché finalmente è successo. È arrivata. Un atto psicomagico questo. Sì. Ognuno ha i suoi segreti. Però diciamo anche una cosa seria, perché queste cose tu le fai davvero, cioè nel senso sì. Nelle aziende le faccio davvero, le faccio anche nelle aziende, portando proprio un concetto di cambiamento da un punto di vista etico, proprio dell'approccio delle relazioni tra le persone, nella comunicazione, e poi tutto questo si traduce in risultati aziendali più efficaci. Quando la gente si diverte a lavorare insieme, lavora meglio. E tu come l'hai celebrata la giornata della felicità? Io l'ho celebrata facendomi una grassa risata subito la mattina, e poi questa volta con un evento molto particolare. Abbiamo festeggiato i 40 anni di un nostro amico, e quindi era un questa un volta bel c'era fuori un motivo, programma, motivo vero un fuori per... programma molto molto bello. È stata un'occasione per ritrovarsi in tanti. Ecco, però insomma noi insomma, ora la metto così, diciamo, noi occidentali, noi insomma italiani, siamo abituati però sempre a svegliarsi la mattina e a lottare, a combattere per arrivare al lavoro, per il parcheggio, cioè, c'è sempre una motivazione, no? Uno è felice quando trova parcheggio sotto casa, è un po' triste come cosa, mi rendo conto, però è un po' quello che facciamo. Tutta questa, diciamo, questo approccio è compatibile con l'approccio dello yoga della risata, cioè si può vivere per obiettivi, però rilassarsi anche al momento giusto. Come si fa, Davide? Beh, intanto proprio lo yoga della risata ci insegna a ridere di queste piccole tensioni, di questi piccoli stress quotidiani. Quindi c'è la risata del non trovo mai parcheggio sotto casa, la risata del semaforo rosso, la risata della coda per tornare a casa. Cioè tutte le situazioni dove normalmente saremmo tentati di arrabbiarci, di prendercela con il mondo intero, invece di passare subito all'automatismo della rabbia, cerchiamo di sostituirlo con l'automatismo. Ci fai una risata per oggi a Milano c'è il nuvolo? Chi se ne frega? Immaginate che lo stiamo indicando e gli Fantastico. Ridiamo proprio in faccia. E noi ci siamo girati, in effetti è nuvolissimo. È nuvolissimo. Sì, però chi se ne frega? Una risata vi seppellirà, direi. Dobbiamo salutarci, una risata anche per il saluto. A presto. Ciao, ciao Davide, ciao. Davide Giansoldati, lo yoga della risata 800 24 0024, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare, questa che avete appena ascoltato è Immigrant Song dei Led Zeppelin, che è il si può fare in musica che dà la carica al nostro ascoltatore Tonio Monda, che l'ha scritto sul nostro Twitter su personale Twitter, direi, sì. Perché ci scrive spesso su Twitter. Vi ricordiamo che potete, anzi dovete, e noi vorremmo che voi lo faceste, di segnalarci il vostro si può fare in musica, ovvero una canzone che secondo voi riassume bene il concetto di si può fare, o anche delle canzoni scritte ad hoc da voi se siete dei cantanti o anche se non lo siete, se siete musicisti o anche se non lo siete. C'è un momento, se non siete musicisti, avete scritto una canzone, esatto, non mandatecela. No, perché... magari non siete dei musicisti professionisti, ma avete scritto una bellissima canzone, mandatecela in qualunque caso. Lo potete fare sia sui nostri account ufficiali, quindi sul nostro Facebook si può fare trattino Radio 24, oppure sul nostro account Twitter che è chiocciola si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e il mio chiocciola Ale Maurizi. Mandatelo subito se avete una canzone, una musica, un si può fare musica in note che volete, che avete pensato per noi. Vi aspettiamo anche, e noi lentamente li manderemo tutti in onda. 800 24 00 24 intanto anche per commentare. Siamo partiti questa mattina insomma da una proposta che è quella di istituire un albo degli imam per avere più trasparenza, forse anche sicurezza nelle moschee in Italia. Una proposta che viene, l'abbiamo sentito prima, dal presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche in Italia, che è anche un imam e che ha da poco incontrato il ministro Alfano. Poi insomma siamo partiti anche con lo spunto della poesia, la giornata mondiale della poesia. E a proposito di giornate mondiali, sì, scusami, siccome oggi è la giornata mondiale della poesia, ma anche la giornata mondiale contro il razzismo, ma anche, come mi segnala Daniele Tolomei che mi scrive sul mio Facebook, un'altra giornata, un'altra è molto importante, oggi è anche la giornata mondiale sulla sindrome di Down. Ma il bello è che Daniele Tolomei mi spiega come mai proprio oggi è la giornata mondiale della sindrome di Down, perché la sindrome di Down è una condizione cromosomica caratterizzata dalla presenza di un cromosoma in più proprio nella 21esima coppia di ogni cellula. Ecco e perché quindi, il 21-3 certo, è la data della giornata mondiale. Mi piace molto perché non lo dimenticherò mai più, né che il 21-3 è la giornata mondiale della sindrome di Down, né qual è il motivo per cui una persona è Down, ovvero che ha un cromosoma in più, diciamo, nella 21esima coppia. E quindi ora ringraziamo. Dica una poesia, Guzzanti, noi aspettiamo le vostre poesie, cari ascoltatori. Ce l'ha postata anche Gian Soldati, dello Yoga della Risata, che abbiamo sentito poco fa. È una poesia di Trilussa, bella, la trovate sul nostro Twitter. Tu ce l'hai una tua poesia a cui sei affezionato? Sei un attore, ne avrai fatte di interpretazioni, di, no, tutte cose comiche. Soprattutto, no, di poesie ne ho fatte, soprattutto nei pro, ne ho dette ai provini, succede, soprattutto ai primi provini. Per far vedere quanto uno è bravo. Quando feci il provino per entrare in Paolo Grassi, perché all'Accademia di Roma. Ovviamente, se volete, insomma, decantare la vostra poesia qua, Radio 24, cercate almeno di farlo con cognizione di causa, ma no, in qualunque modo. Guarda, io al mio provino declamai una poesia di Brecht e lo feci in tedesco furbescamente e sbagliai un sacco di cose, ma nessuno se ne accorse perché nessuno era in tedesco, esatto. Sulla questione della sindrome di Down aggiungo solamente che oggi c'è anche il primo torneo misto di calcio a 5, il 21 marzo, sempre in occasione della giornata mondiale della sindrome di Down, che si giocherà negli impianti del CUS di Pisa. Lo dico perché Pisa a te è tanto cara. Grazie. E quindi avviso, e soprattutto perché questo poi introduce anche il fatto che poi parleremo anche di calcio. Sì, e di razzismo. Abbiamo un paio di ascoltatori in linea. Efrem, si pronuncia così, da Brescia, può darsi? Sì, buongiorno. Buongiorno. Ascolti, volevo dedicare a tutti gli italiani che in questo momento si trovano al bar, sì, a godersi e sorseggiarsi una tazzina di caffè, di buon caffè. Sì. E l'ho intitolata così, e adesso gliela leggo. Dunque, al caffè, gente, brusio, chiacchiericcio, toni salendo e decrescendo, scambi d'opinioni, pareri concordi e contrastanti, notizie discusse, ingigantite e minimizzate, caffè cremoso, fumante, normale, ristretto, lungo, macchiato, tinto, corretto, dolce, poco dolce, amaro. Per un attimo tutto cessa, la mente va al piacere di quel nettare scaccia pensieri, la giornata ricomincia con le sue preoccupazioni. Efrem, io non so se è finita, ma è finita. Sì, è finita. Sì. Ah, molto bene, si adatta molto anche alla mattina qua, ascoltando la radio, il caffè, mentre com'è che ha detto, le notizie ingigantite? Toni salendo e decrescendo, sì, scambi d'opinioni, pareri concordi e contrastanti. Va bene, va bene. Notizie discusse, ingigantite e minimizzate. Ecco, questo per noi va benissimo. Grazie. Ecco, è molto bello anche l'elenco di tutti i caffè, che è un grande, sì, classico. Sì, macchiato, cioè, macchiato caldo, macchiato freddo in tazza. Questo era un po' in tema Gassman. È una varietà, perché tutti al bar non bevono la stessa cosa. Ne certo. Uno, l'altro, quell'altro, intanto discutono, parlano, cambiano opinioni. Mi è mancato un po' lo zucchero di canna. Via. Mi è mancato un po' lo zucchero di canna quando ho iniziato con i dolcificanti. Lo zucchero di canna sta nel dolce, poco dolce, e poi dopo no. Perfetto, non perfetto. Guardi che era un gioco di parole questo di Gabardini sulla canna. No, comunque, grazie Efrem. Grazie per aver giocato con noi da Brescia. Ora dic una poesia. Grazie. Vabbè, era un gioco di parole, di la verità. No! Dai, lo zucchero di canna. No, ti è mancato lo zucchero di canna. Mi è mancato perché quando si inizia con gli elenchi, di solito dei caffè, poi si inizia con i vari dolcificanti. 800240024, c'è anche Sergio che ci chiama da Torino. Pronto? Pronto, buongiorno. Io sono qua. Stamattina ho sentito per radio la vostra iniziativa e allora ho composto una poesia intitolandola Si può fare in vostro onore. Ah, l'ha composta adesso, così se adesso, sta... adesso, poesie questo. Espresse. Speriamo che lei sia bravissima a fare. Siamo poesie lusingati. Espresse. Vediamo, sentiamo. Lo giudicherete dopo averla sentita. Prego. Si può fare, sussurra lo spasimante alla dorata. Si può fare, incita il trainer al campione. Si può fare, implora il malato al chirurgo. Si può fare, risponde il potente al politico. Si può fare, conferma il saggio all'indeciso. Si può fare, stimolano Maurizio e Carlo assieme a tutti noi. E va bene. E come possiamo commentarla quando è la prima poesia che contiene il nome di Alessio e il mio? Siamo felicissimi, lusingati e le ringraziamo. E rispondiamo, si può fare, lo giudicheranno gli ascoltatori. No, lo giudicheremo noi, perché grazie comunque Sergio. Io vi ammiro e l'ho data sinceramente, sì, a voi come segno di gratitudine per l'intrattenimento che fate. Grazie Sergio. Grazie mille veramente. Ci piace molto questa cosa qua. Sono commosso, lo dico sul serio. Adesso cosa facciamo? Ci sarà, come dire, un'inclinazione a premiare Sergio perché ha fatto la poesia per noi? No, noi siamo incorruttibili. Noi siamo oggettivi, incorruttibili. Certo, se ci mandano un Rolex da 10.000 euro, dipende, ne parliamo. Ne parliamo. E poi mi dimetto. si può fare. Cronache da un paese migliore. In questo posto non l'ho mica fatto apposta, è un parcheggio gigantesco con il divieto di sosta, per esempio quegli sguardi che ti sfiorano un momento e poi quasi naufragarci nelle storie che hanno dentro. Ci sono giorni che ho la sensazione di averti detto tutto, poi succede qualche cosa che riapre la partita, è la strada che mi chiama e non posso farci niente, il mio posto è nel mondo tra le voci della gente, partirò e sempre questa voglia di vivere, di andare dove portano le strade, e là in fondo cosa c'è, e là in cima cosa c'è, e se è vero che si vede un panorama che pacifica il cuore, fa esplodere il cuore in 7 miliardi di pezzi senza dolore. Giovanotti, 7 miliardi. Se ci pensi, l'errore che fa il razzista qual è? Quello di ridurre il comportamento di tutti al comportamento di uno, senza pensare che invece siamo 7 miliardi, tutti diversi uno dall'altro. L'hai detto prima tu, Carlo, è stata la settimana contro il razzismo, questa qua, e ci sono state diverse iniziative. Noi ne vogliamo celebrare una che riguarda lo sport, il calcio in particolare, un calcio per la pace. Ne parliamo con Maria Gabriella Mieli, buongiorno intanto, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che è responsabile per l'Italia della Federazione della Pace nel mondo. Che responsabilità ha, tra l'altro, Maria Gabriella? Nello specifico la Federazione delle Donne per la Pace nel mondo, sì. Insieme con la Universal Peace Federation, sì, è una responsabilità immensa, ma ci credo, come penso crediate tutti quanti voi, e sono orgogliosa insieme a tutte le amiche, perché questa è un'iniziativa prima di tutto al femminile, sì. che mi stanno aiutando a portare avanti questo progetto sul territorio torinese e piemontese. E speriamo di poter contribuire attraverso questo progetto internazionale ad aiutare anche il territorio a migliorare. Ecco, questa iniziativa è abbastanza complessa, un calcio per la pace si inserisce nel progetto congiunto tra l'altro della Juventus Calcio e del Centro UNESCO di Torino, un calcio al razzismo gioca con me, un'iniziativa che vedrà protagonisti i pulcini della squadra di calcio del Toro, ma anche quelli della Juve e soprattutto dei bambini, 7 bambini arabo-israeliani e 7 bambini ebreo-israeliani di 11 anni che sono già arrivati a Torino? Sì, sono arrivati 2 giorni fa. Sono arrivati a Torino 2 giorni fa, hanno fatto il viaggio insieme, si sono conosciuti, si stanno, come dire, diventeranno tutti ambasciatori della pace contro il razzismo e contro, diciamo, le tensioni che ci sono sicuramente in Israele e nei territori palestinesi. Tutti appassionati di calcio, giocheranno a calcio, andranno in tribuna a vedere la partita, si sfideranno con i bambini italiani. Ci racconta un po' questo progetto che ci ha incuriosito, sì, molto? Sì, grazie. E infatti hanno una settimana ricca di tante attività, ma loro sono desiderosi di avere tra le mani e soprattutto tra i piedi il pallone. Il pallone che è uno strumento, che è lo strumento migliore secondo me, perché è rotondo, non ha ostacoli e aiuta assolutamente ad integrare i bambini. Loro oggi sono appunto alla Vinovo per questa iniziativa e poi saranno domani a vedere la partita Juventus-Genoa e saranno domani mattina anche a Orbassano al centro del Torino. Lunedì pomeriggio avranno l'opportunità di essere con il Taglio dei Quartieri a Moncalieri. E martedì saranno in Valle di Susa con la Union Valle di Susa e mercoledì pomeriggio l'episodio conclusivo con il Derby della Pace al CIT Turin. Quanto è importante fare progetti di questo tipo proprio con dei bambini che, insomma, sappiamo, i bambini generalmente non sono razzisti, non sanno nemmeno cos'è il razzismo, guardano alle differenze con curiosità, con stupore, ma non con, a volte anche con diffidenza, ma in maniera naturale, in maniera sana. Si diventa razzisti da adulti, però invece è importante, perché in questo caso coinvolgere i bambini in un progetto come questo? Perché i bambini non hanno barriere, le barriere crescono con l'età praticamente, quindi aver cominciato questo progetto, che non è fine a se stesso, che sarà anche itinerante, con bambini che sono nel momento formativo migliore. Infatti questo è un progetto innanzitutto educativo, che vede non soltanto lo sport, ma vede anche un'educazione alla pace. Loro saranno i futuri leader della società, e quindi è importante che comincino a interagire tra di loro, e loro sono molto spontanei. Più giovani sono, più spontaneità hanno e meno concetti ci sono nella loro mente. Vanno naturalmente verso gli altri con il sorriso, con l'abbraccio, con la condivisione, cosa che magari manca molto a noi tutti. Ma senta, ma a proposito di futuri leader, le volevo chiedere una cosa che forse non c'entra niente. Mi chiedevo, ma questi 14 bambini hanno fatto dei commenti sulla rielezione di Netanyahu? No. Non si sono pronunciati in questo. A loro interessa avere il pallone tra le gambe e andare a correre e giocare. Ho capito, ma hanno 11 anni, insomma, non è che ne hanno 3. Gli interesserà anche dell'altro? Non è che giocano solo, diciamo, a calcio 24 ore su 24. Ho capito, però noi non abbiamo affrontato questo argomento, certo, con loro. A noi interessa che loro si trovino in un ambiente tranquillo, neutro, e infatti l'Italia è un paese amico sia verso Israele sia verso la Palestina. Hanno bisogno di stare in un ambiente sereno, protetto, e questa è la cosa che a noi interessa più di ogni altra cosa, e soprattutto vogliamo farli sentire a casa attraverso le nostre emozioni, attraverso il nostro abbraccio, attraverso la nostra cura verso di loro, perché pensiamo che le loro famiglie ce li hanno affidati. Certo. E quindi è la prima volta che escono da Israele, hanno sperimentato il volo per la prima volta, sono tante emozioni messe insieme. Certo. Credo che abbiano bisogno di sperimentare questo prima di ogni altra cosa. Giusto, no, ma mi chiedevo anche, giusto, visto che lei sottolineava il fatto che è un iniziativa tutta al femminile, che mi sembra molto bello, e come mai avete scelto il calcio? Che uno di solito si aspetta. Perché avevamo già una serie di iniziative precedenti, fatte però con adulti, con contatti con gli allenatori e un vivaio di 800 bambini in Israele sparsi su tutto il territorio, e avevamo già, come dire, una base attraverso la quale partire. Non sarà però solo il calcio in futuro ad essere coinvolto in questo progetto, ci saranno anche altre discipline sportive, però questo era quello che era già pronto per poter iniziare, e quindi siamo partiti da qui. Pensiamo che comunque, anche se magari esiste il calcio femminile naturalmente, certo, però una mamma approva la scelta del figlio in qualsiasi disciplina sportiva e lo incoraggia e lo aiuta. Le discipline sportive tra l'altro sono molto formative anche da un punto di vista del carattere, per cui ci tenevamo particolarmente che potessero sentire molto questo aspetto di abbraccio, di la riconciliazione è qualcosa che è molto nello spirito femminile e può aiutare i bambini a anche attraverso questo percorso. Certo. Grazie mille. Maria Gabriella Mieli, grazie per essere stata con noi, per averci parlato di questo progetto, un calcio per la pace, un calcio al razzismo. È bella questa idea, no, della palla che è rotonda e che è democratica, che va a sparare a lei, che non ha spigoli. Molto bello. 800 24 00 24, abbiamo Federico che ci chiama da Milano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sento, c'è quella proposta di creare un albo degli imam. Sì. Mi sembra un'ottima idea per cominciare ad affrontare il grosso problema che abbiamo noi occidentali, che continuiamo a raccontarci questa favoletta rassicurante di un Islam pacifico e tollerante, quando invece basta leggersi il Corano E a questo proposito vi raccomando, andate sul sito www.corano.it dove trovate la smentita di questo. Adesso uno c'è uno molto facile, sura quinta, versetto 33-34, dove il Corano prescrive di crocifiggere gli infedeli, cioè noi, tagliare. Ma quelle però sono le sunne, però, quelle sono le sunne. No, e però anche, sono, anche se legge la Bibbia, anche se legge la Bibbia, diciamo, Corano, la favoletta. Per favore, è sì. Il Corano, è sì. Il Corano, traduzione certificata mi sembra dalla Università di Al-Ansar, peraltro lo stesso si trova sulla versione in tedesco, sì. Quindi non, cioè, non, per favore non venitemi a dirmi che queste sono frasi prese fuori dal contesto, perché il Corano è una raccolta di frasi, non c'è un contesto, non è come ma guardi, io non voglio mettere in discussione quello che lei sta dicendo, non so quello che ha citato, so che spesso vengono citate queste passaggi della, che fanno parte dei testi sacri della religione islamica, che non sono il Corano, sono la Sunna, che è un'altra cosa. Dopodiché mi domando se al mondo ci sono, non so quanti sono gli islamici, 2 miliardi o 1,5 miliardi, quello che sono, se sono tutti estremisti, non credo. C'è sicuramente un tema all'interno della religione islamica, come Gabardini diceva, anche all'interno di altre religioni, non dimentichiamoci che noi abbiamo fatto le crociate. Dopodiché la proposta dell'albo, non ho capito se lei la prende sul serio o se era ironico quando diceva che ci può. No, non lo sono assolutamente, perché sto dicendo sì. Che finalmente si comincia un po' ad affrontare il problema, cioè, esatto. Io su questo sono d'accordo. Non è nascondendosi un problema che lo si risolve, il problema è che noi ci nascondiamo è la virulenta aggressività dei contenuti fondamentali di questa religione. Poi che questa aggressività e violenza non voglia essere praticata da tutti coloro che praticano questa religione è un altro discorso, però non continuiamo a raccontarci la favoletta della tolleranza e della religione, perché è falsa. Mi scusi, però se lei parla di favoletta, perché dentro nel Corano c'è una frase così, io guardi, apro a caso, leggo Levitico: chiunque maltratta suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte. Vogliamo parlare? Quindi prendere delle frasi dalla Bibbia o dal Corano e pensare che per questo tutta la religione sono cattivo, tutto l'Islam è cattivo e qualcuno è moderato, è assolutamente una falsità. È questo il problema. Ma infatti non ho detto tutti, ho detto che comunque c'è una nicchia. Ma la religione cattolica è identicamente, tutta la Bibbia è strapiena di frasi che oggi non hanno più riferimento con la realtà, sì. Perché o almeno se lei pensa che uno deve essere messo a morte perché maltratta suo padre, parliamone. Sì, e gliene leggo una, poi se vuole gliene leggo tutte. Bravissimo, nel Vangelo però frasi come queste non ce ne sono. La religione cattolica non è basata solo sul Vangelo, purtroppo. Non mi interessa aprire questo dibattito sulle religioni, perché ognuno poi la pensa come gli pare, interpreta come gli pare i testi, le parole, quello che vuole. È una discussione questa che ci porta dove ci porta? Ci porta lontanissimo. Porta sul fatto che i testi sacri appunto non sono da prendere alla lettera. Esatto. Ma Federico, che dire? Grazie per averci chiamato. La proposta è questa, cioè è quella di istituire un albo degli imam. La religione islamica non ha clero, tra l'altro, quindi non c'è filtro, chiunque può entrare in una moschea e predicare quello che vuole, anche quello che diceva lei, l'odio, cosa che invece oggi un prete non andrà mai in una chiesa a dire, quella, a recitare quella cosa del Levitico che ha citato prima Carlo. Nelle moschee questo può avvenire, perché gli imam può essere chiunque. Allora fare un albo degli imam può avere il senso proprio di evitare queste estremizzazioni, per esempio. Quindi mi fa piacere che lei sia d'accordo con noi. 800 24 00 24 Pier Giorgio da Lucca, buongiorno. Sì. Buongiorno. Io sarò breve. Nella mia gioventù ho letto qualcosa e mi ha fatto ricordare e ho forgiato questa piccolissima poesia. Ansanti, pedanti, che fate voi? Ansanti e pedanti siamo dietro a voi. Finita. Mi ha fatto molto ridere. Mi sembra molto bella. Io devo ancora metabolizzarla, però complimenti anche per l'interpretazione, esatto. Abbastanza ansante. Ansanti, vabbè. Siamo dietro a voi, cosa dobbiamo dirvi? Mi sembra bellissima. Va bene. L'ho voluto perché vi seguo spesso, mi fa tanta compagnia la vostra radio, è meravigliosa. Quindi io che mi sento un sì. Giovane degli anni 60. Pier Giorgio, ma è prodotta stamattina la poesia? Non ho capito. No, l'avevo fatto quando ancora scrivevo qualche canzone da ragazzino, ho conosciuto molti personaggi da Tenco ad altri, io sono di Genova, sente, c'ho una carenza. Si sente splendidamente. Sono in Toscana, ho gli nipoti in Toscana, sto bene qui in Toscana, è vicino alla Liguria, e però nel mio rimaneggiare ho fatto canzoncine fatto un po' di... come tutti negli anni quando si aveva 15-18 anni. Sarebbe bello, mio... grazie per Giorgio intanto per averci chiamato, sarebbe bello oggi forse proprio che fossero gli ascoltatori in realtà a scegliere, piuttosto che noi, però questo non è possibile, sono i tempi tecnici. Dobbiamo trovare un sistema per fare delle votazioni, come il sito di Beppe Grillo, dovremmo trovare un sistema. Adesso piano piano arriveremo a stabilire chi si porta a casa anche oggi il premio, un cesto di prodotti tipici a base della sparagolosa di Mezzago, non scherziamo, sono di Mezzago, in provincia di Monza e Brianza, sono i premi offerti dall'associazione Comuni Virtuosi. Ci fermiamo per la pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Stasera mi butto, stasera mi butto con te. Ci siamo detti, metti che ti regalano un orologio, un Rolex o anche un orologio meno di valore a tua insaputa e non vuoi fare la fine di lupi, dove lo butti? Dove lo butti? E allora abbiamo chiesto a Rossano Colini. Lo butti? Buongiorno Rossano. Buongiorno. Rossano Ercolini, lo conoscete, insomma, il maestro di Capannori del movimento Rifiuti Zero, di Zero Waste Italia. Rossano, sì. No, non lo so, cioè, l'orologio dove lo butto? L'orologio usato? Lo butto? L'orologio è un piccolo RAE, cioè un piccolo rifiuto elettrico elettronico, quindi a fine vita deve essere conferito nelle isole ecologiche, dove poi verrà sottoposto a un trattamento, in particolar modo per estrarre l'argento che è contenuto nelle pile. Tanto mi accorgo di non aver mai buttato via un orologio nella mia vita. No, perché non lo butti mai, speri sempre che riparta. Si mette in una scatola e si scrive sopra orologi vecchi che non funzionano. Sì, poi ci sono gli amatori, ci sono molti negozi che commercializzano orologi usati di pregio. In realtà noi sappiamo, cioè, che gli orologi non si buttano, tu faccia la fine di lupi o no. E invece la cosa che ci avevi detto l'altra volta, che ci aveva incuriosito molto, era sui cellulari. I cellulari sì che si buttano, ma quelli hanno un valore. Sì, intanto c'è da dire che purtroppo il tempo di vita di un cellulare, con le nuove costanti invenzioni, le novità dell'ultimo momento, hanno un tempo di vita molto breve. Questa è la brutta notizia. Non solo per le novità, direi anche semplicemente perché cadono, non so, il mio cade, il mio dura 3 mesi di solito. Soprattutto le piastrelle del bagno sono la vera criptonite del mio telefonino. Un cellulare che è proprio dei Flintstone, proprio vecchio, faccio una brutta figura. Quello è perfetto. Sì. Comunque, ti ho interrotto, ti chiedo scusa, dove si butta? Allora, questo di nuovo è un RAE, un rifiuto elettrico elettronico, ed è molto prezioso perché si stima che ogni smartphone, mediamente parliamo di cellulari, contengano un valore, un equivalente di oro per un valore di un euro e quasi e mezzo. Ah, però. 0,03 grammi, per cui con 100-150 di questi apparecchi dismessi praticamente si arriva a realizzare un valore economico di circa 120-150 euro, ma soltanto parlando di oro. Solo per quanto riguarda l'oro che è contenuto all'interno. Quindi diciamo, per ogni singolo cellulare non è che ne abbia un contenuto che valga la pena, diciamo. Però se li metti insieme gli altri numeri, sì, allora sì. Io ci sono vicino. Adesso fondo tutti i miei telefonini e la volta che mi sposo faccio 2 piccole fedine. Fai la dote, Carlo, con i cellulari usati, con l'oro che c'è nei cellulari usati. 0,3 grammi dentro ogni cellulare? No, 0,03, un decimo di grammo, ce ne vogliono 100 per fare 3 grammi, quindi diciamo il valore su scala industriale è rilevantissimo. Teniamo conto che fino al 2011-2012, da quando insomma i rifiuti elettronici ed elettrici non vanno più nei paesi del terzo mondo, dove venivano diciamo così smaltiti nella illegalità più assoluta, andavano in discarica ben 320 tonnellate di oro. Pensa. Si stima che tra computer, cellulari, piccoli giochi elettronici, la miniera d'oro più estesa, nettamente più estesa, è quella urbana dei nostri RAI. Quindi l'industria sta orientandosi per recuperare le terre rare. Noi per anni abbiamo buttato via materie prime oro, è una cosa pazzesca. Questo è solo uno degli esempi che si possono fare sul fatto che insomma le cose che buttiamo spesso, i rifiuti non sono rifiuti ma sono materie prime preziose. Tra l'altro, Rossano, parlando in serio adesso, in settimana so che siete stati ricevuti alla Camera, c'è stato un incontro a proposito della iniziativa sui rifiuti zero. Sì, abbiamo avuto il piacere di presentare la proposta di legge rifiuti zero. Certo. Che, di cui è iniziato il percorso di approvazione, di discussione, ovviamente, noi non ci illudiamo. Quando verrà discussa, Rossano? Quel giorno me lo voglio segnare, mi collego col sito della Camera, voglio vedere se ne parlano di questa cosa. In termini, noi non siamo in grado di sapere quando avverranno le discussioni, perché la discussione è partita nella Commissione Ambiente, che sono le strutture che iniziano a approfondire temi, poi c'è un relatore, la buona notizia che è l'ex sindaco di Ponte sulle Alpi, il comune virtuoso che ha oltre il 90% di raccolta differenziata, che relazionerà, informerà i suoi colleghi sull'articolato. Siete e siamo in buone mani, però ecco, su queste cose, per esempio le leggi di iniziativa popolare, è giusto anche ricordare questo, perché la anche abbastanza criticata riforma, uno degli aspetti della riforma costituzionale in discussione in Parlamento prevede proprio che in futuro le leggi di iniziativa popolare debbano essere incardinate obbligatoriamente alla Camera e nel futuro Senato. Cioè adesso si fanno queste iniziative, poi spesso cadono in nulla, invece in futuro, se passerà la riforma, è giusto che sia così. Quando i cittadini firmano per fare una proposta di legge, bisogna che il Parlamento la discuta, e speriamo che anche questa sui rifiuti zero faccia la sua strada in Parlamento. Grazie Rossano per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie, un abbraccio. Ciao, a presto. Volevo... Rossano Ercolini sempre così un po' dimesso, però è lì che macina incontri, discussioni, fa chiudere gli inceneritori inutili. È un grande, è una macchina. È un grande perché porta avanti premio Nobel dell'ambiente 2013. Esatto, e porta avanti questa cosa veramente con precisione. Volevo rispondere a un messaggino che mi scrivono, direi: stupido, la religione cattolica si fonda sul Vangelo. Niente, volevo ricordargli che comunque i 10 comandamenti non sono nel Vangelo e che comunque durante la messa si legge la Bibbia, diciamo la prima lettura, per esempio, così per fare un esempio. Però mi prendo volentieri dello stupido, non è un problema. Come mi annoiano questi argomenti sulla religione cattolica? Non me ne frega niente. 800 24 00 24 traffico. Potrai correre il sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari amici ascoltatori, 800 24 00 24. Questa mattina vi abbiamo chiesto di cimentarvi in una cosa che vi è piaciuta molto, cioè recitare le vostre poesie. Poesie è piaciuto molto anche a noi. È piaciuto molto anche a noi. Spero qualcosa anche agli ascoltatori, che non siano, diciamo, di non averli tediati troppo. Perché no, ognuno scrive. Dai commenti sono tutti contenti. Ognuno di noi ha scritto poesie, canzoni, libri, film, enciclopedie. Cioè, e io invidio chi intanto non si vergogna, perché perché normalmente le richiudi orrende in un cassetto e speri che nessuno le veda mai più, perché sono delle cose appunto generalmente orrende. Invece qualcosa di buono è venuto fuori stamattina. Abbiamo Aurelio che ci chiama. Buongiorno. Buongiorno a lei. Da dove ci chiama Aurelio? Da Civitanova Marche, Macerata. Perfetto. Com'è il tempo lì? Oggi qui invece da noi è Milano nuvoloso. Bellissimo. Ah sì? Senta, io vorrei avvertire il pubblico di sentirla la poesia con sentimento, perché è dedicata a tutti i ricoverati negli ospizi. Ma consentimento è il titolo o è l'invito ad ascoltarla consentimento? No, è cioè, poesia di un Teschio. Bisogna predisporsi al sentimentalismo. Esatto, al sentimento. E il titolo è poesia di un vecchio. Esatto. Ottimo, prego. Vada Aurelio. Ci hanno dei vecchi ricoverati e dalla vita si alla fine, dai figli dimenticati e dall'intera società. Noi vogliamo bene a tutti, ricordando i giorni belli, non vogliamo questi lutti di questi miseri ribelli. Se un saluto dovete fare, negli ospizi dovete venire, con noi un po' parlare, tutto quanto da finire. È finita? Il personale è sempre poco. Accudire gli anziani, la colpa del proloco, non varano dei piani. Aurelio, più che una poesia sta diventando una cronaca quasi di una... No. Va avanti, è finita. È finita. Figli miei, non invecchiate, non riducetevi negli ospizi, con voi un po' giocare nei vostri figli. Va bene. Grazie a lei. Grazie, questo era Aurelio. Mi è piaciuto l'invito di dire: se volete ascoltare, venite negli ospizi a salutare. Sì, sicuramente qui la poesia valeva più per l'invito che c'era intorno che per la poesia in sé, se non altro perché non si è capito tutto proprio le parole che ha detto Aurelio. Va bene, tra poco diremo anche chi ci ha convinto di più come poeta del mattino. Adesso un'ultima segnalazione che viene da Roma. Di un gruppo pop inglese di ragazzine dedicata alle scarpe da ginnastica. Trovate tutti i link sulla pagina internet del programma Si può fare su Radio 24, ma anche sui nostri social, perché c'è un progetto che viene da Roma. Ne parliamo con l'assessore alla scuola, allo sport, alle politiche giovanili del Comune di Roma, Paolo Masini. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi e buona primavera. Buongiorno. Grazie, bell'invito, buona primavera. Allora, è un progetto che riguarda le scarpe da ginnastica. Scarpe da ginnastica di tutta Roma, venite unitevi a noi, unitevi. Sì, è un progetto che abbiamo fatto con Esosport e grazie al contributo di Acea, della Presidente Tomassetti. In pratica si tratta di questo. Già viene utilizzato questo tipo di materiale, pertanto le scarpe da ginnastica esauste da parte di Esosport per fare i tappetini antiurto, quelli che si usano appunto nei parchi gioco dei bambini, con idea molto carina che ricorda anche la moglie del responsabile di Nicolas, si chiamano i giardini di Betti. Noi abbiamo voluto fare un passo in più, abbiamo chiesto a questa azienda di farci delle piste di atletica leggera per le nostre scuole. Pertanto noi metteremo in 100 scuole di Roma, ma già ci stanno chiedendo centri sportivi privati, parrocchie, tutti quando hanno saputo questa cosa. I contenitori, sì, per raccogliere appunto le scarpe esauste. Cioè chi raccoglie poi avrà diciamo in qualche modo in cambio la pista di atletica o la pavimentazione del parco, insomma quel che è, con l'aiuto del comune. Assolutamente sì. Quindi, noi metteremo a disposizione il materiale e si realizzeranno o le piste, appunto i giardini dei Betti. È una tecnologia costosa, cioè al comune costerà molto questa, a parte che c'è dietro ovviamente un messaggio importante sul recupero e riciclo delle cose esauste, in questo caso le scarpe da tennis. È costosa la tecnologia? Allora, no, non è costosa perché appunto con l'azienda che abbiamo scelto come partner c'è il trattamento delle scarpe, si paga un chip per entrare appunto piccolissimo, tra l'altro pagato dallo sponsor Acea, e tra l'altro le scarpe, la parte superiore viene riutilizzata anche quella per l'interno dei palloni da basket, da pallavolo, da rugby, mentre la parte inferiore appunto viene utilizzata per le cose che ho detto. E un'altra particolarità che abbiamo voluto abbinare, che è molto, insomma, alla quale teniamo molto, che le prime scarpe che sono state conferite in questa iniziativa, sì, che sta coinvolgendo tutta Roma, sono quelle di Pietro Mennea. Ah. Abbiamo chiesto a Manuela, ma la moglie, Manuela Olivieri Mennea, tra l'altro ieri eravamo con lei alla, sì, presentazione della fiction che Rai proietterà a fine mese, abbiamo chiesto di portare delle scarpe un di vecchio Pietro, paio di scarpe, bellissimo, che noi chiamiamo il lievito madre. Noi vogliamo che, certo, da delle scarpe, come si fa nei paesi, possa con il lievitare, con il tutta pane, una situazione, sì, una nascano situazione, piste da correre. Quindi sappiate, correre, tutti gli abitanti di Roma, che si può partecipare a questo bellissimo progetto. Donate le vostre scarpe da tennis, da ginnastica, usate, vecchie, e così avrete tutta la città con parchi, giochi per bambini, ma soprattutto piste di atletica nuove, nuovissime. È il dove lo butto 2.0, diciamo, sì, per rispondere con Ercolini. Dove lo butto? Allora, le scarpe le si consegna a voi. Sì, allora, non perché sennò ce le troviamo tutte in Campidoglio. Allora, la mail è la pista di Pietro @comune.roma.it per sapere. Comunque sul sito, perfetto, di Roma Capitale ci sono tutte le informazioni. Grazie, dobbiamo, sì, chiudere. Grazie, assessore, okay, Masini. Grazie a voi. Buon sabato. Questo era il progetto del Comune di Roma. Trovate tutti i link anche sulla nostra pagina Facebook, del programma, sul sito, lo ripeto, di Radio 24. E adesso è il, premiamo, momento di dire la poesia. Ora, dica una poesia. Grazie. E allora, giudizio insindacabile nostro della redazione Si può fare, vince Efrem da Brescia con la poesia sul caffè. Eccolo qua. Si porta a casa il cesto di prodotti a base dell'asparago rosa di Mezzago, messo a disposizione dall'associazione Comuni Virtuosi. Grazie a tutti. Grazie mille. Andrea Piana, autore del programma, insieme a noi Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone in redazione, Pietro La Corte oggi in regia. Noi ci sentiamo domani alle 8.30, mi raccomando, puntuali con Si può fare. Buon sabato da Carlo Gabardini. Avremo il grandissimo sindaco di San Lazzaro, una grandissima donna con noi. Ed Alessio Maurizi, buongiorno, buon sabato, a domani. Ciao.